Orizzonti. Fotografie sonore dalla Campania multiculturale. Che lavoro fai? Come ti chiami? Come inizia la tua giornata? Siamo tutti diversi o siamo tutti uguali? Dimmi tre ricordi che porteresti con te ovunque. Quante lingue parli? Qual è secondo te una cosa inspiegabile dell'Italia? Gli alieni ti danno uno speciale raggio laser per togliere la cosa più brutta del pianeta. Che cosa vuoi togliere? Qual è il tuo colore preferito? Cosa vedi all'orizzonte? Senta. Ehi! Che siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino! In questo episodio, Zineb. Mi chiamo Zineb Ilor. Faccio l'interprete in prefettura e la questura di Salerno. E ho 35 anni. Quando esco di casa vedo subito il supermercato o il Carrefour. Vivo a Salerno. La mia giornata inizia con il sorriso e le coccole del mio bimbo e finisce sempre con lui tra le braccia, mentre tutta la giornata la passo tra prefettura e questura. Non cerco un altro posto per vivere perché sto bene già a Salerno. Io sono nata in Marocco, i miei sono marocchini. Quando mi chiedono da dove sono, rispondo sempre con sono del Sahara. E come lingue parlo tutti i dialetti arabi, parlo il francese, inglese e ovviamente l'italiano. Sotto la doccia io non canto, non mi piace. Come ricordi da portare, porterò il braccialetto con le iniziali dei miei bimbi e mio marito, una foto della mia famiglia e il mio piccolo Corano. Agli abitanti del pianeta dirò che gli esseri umani non sono tutti uguali. Sono tutti diversi, sono difficili da capire. A differenza dei robot, loro hanno un cervello, però non hanno tutti un cuore e umanità. La cosa più inspiegabile dell'Italia è proprio la sua politica. E quando rientro al mio pianeta, punterò il raggio laser verso Trump. Nega mozzo che su cosa, doc. Voglio... Per me la parola straniero vuol dire una persona che non appartiene ad un posto, perciò sì, ce ne sono tantissimi, anche italiani, anche chi viene ad esempio da Milano per stare qua a Salerno per me è uno straniero. In questo momento il colore più bello è il blu scuro e verso l'orizzonte vedo più chiari i miei obiettivi. Montaggio, regia e suoni di Antonio Cortazzo e Giulio Escalona. Coordinamento tecnico Bahia Lahboub.